Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Mr. Jingle era molto discorsivo e il numero dei suoi aneddoti non era superato che dall'eleganza dei suoi modi. Mr. Tupman sentiva che mentre la popolarità di Jingle andava crescendo, egli, Tupman, veniva respinto a poco nell'ombra. Le sue risa erano forzate, la sua allegria artificiale. E quando alla fine posò le tempie dolenti fra le lenzuola, pensò con mostruosa compiacenza a quanto gli sarebbe piaciuto in quello stesso istante avere la testa di Jingle fra il piumino e il materasso. L'infaticabile Jingle si alzò di buon'ora il mattino dopo e mentre i suoi compagni restavano a letto prostrati dagli eccessi della sera precedente, si applicò con gran successo a suscitare l'ilarità dei presenti alla prima colazione. Ebbe tanto successo che perfino la vecchia signora sorda volle farsi raccontare dentro il cornetto acustico due o tre delle sue spiritosaggini migliori e anche ella si degnò di osservare alla zia Zitella che lui, cioè Jingle, era una simpatica faccia tosta. Opinione su cui tutti i membri della famiglia presenti in quel luogo e in quell'ora furono pienamente d'accordo. Nelle belle mattine d'estate la vecchia signora aveva l'abitudine di recarsi al chioschetto, dove già Mr. Tupman si era fatto onore, nella seguente forma e maniera. Il ragazzo grasso prendeva da un attaccapanni dietro la porta della camera da letto della vecchia signora una cuffia aderente di seta nera, uno scialle pesante di cotone e un grosso bastone dal gran manico. E la vecchia signora, infilata la cuffia e indossato lo scialle con tutto agio, si appoggiava con una mano al bastone e con l'altra alla spalla del ragazzo grasso e se ne andava passo passo verso il chioschetto, dove il ragazzo grasso la lasciava godersi il fresco per una mezz'ora, dopodiché tornava e la riaccompagnava a casa. La vecchia signora era molto precisa e molto scrupolosa. E dopo che questa procedura era stata osservata per tre estati successive senza la minima variazione, non fu poca sorpresa per lei quella mattina vedere il ragazzo grasso che invece di andarsene dal chiosco faceva qualche passo fuori di esso, si guardava attentamente intorno in ogni direzione e tornava verso di lei con molta circospezione e con l'aria del più profondo mistero. La vecchia signora era paurosa. Quasi tutte lo sono alla sua età, e la sua prima impressione fu che il pasciuto giovanotto stesse per aggredirla selvaggiamente allo scopo di impadronirsi del denaro che aveva in tasca. Avrebbe chiamato aiuto, ma gli anni e gli acciacchi le avevano tolto da molto tempo la forza di strillare, perciò sorvegliava i movimenti del giovane coi sensi del più profondo terrore, che non diminuirono affatto quando egli si avvicinò e le urlò nell'orecchio con tono agitato e, come a lei sembrava, minaccioso. Signora! Ora accadde che Mr. Jingle passeggiasse in quel momento nel giardino presso il chiosco. Anche egli udì urlare «Signora!» e si fermò ad ascoltare il seguito. Aveva tre buone ragioni per farlo. In primo luogo era pigro e curioso. Secondo, non aveva il minimo scrupolo. E terzo, era nascosto alla vista da alcune siepi in fiore. Quindi si fermò dov'era e ascoltò. «Signora!» urlò il ragazzo grasso. «Ascolta ciò!» disse la vecchia signora tutta tremante. «Sono certa di essere stata una buona padrona per te, Joe. Sei stato trattato sempre molto gentilmente. Non hai mai avuto troppo da fare e sempre abbastanza da mangiare!» Quest'ultimo era un appello ai più delicati sentimenti del ragazzo grasso. Egli sembrò toccato, mentre rispondeva enfaticamente. «Questo è vero!» «Allora che cosa vuoi fare adesso?» disse la vecchia signora, prendendo coraggio. «Voglio farvi rabbrividire!» rispose il ragazzo grasso. cosa credete che abbia visto? Proprio sotto questo pergolato ieri sera? Chiese il ragazzo. Santo cielo, che cosa? Esclamò la vecchia signora impressionata dalla solennità del ciccioso giovanotto. Il signore forestiero, quello che si è ferito al braccio, che baciava e abbracciava... Chigio! Nessuna delle serve, spero! Peggio! Tonò il ragazzo grasso all'orecchio della signora. Non una delle mie nipoti! Peggio! Peggio, Gio! Disse la vecchia signora che credeva di aver raggiunto l'estremo limite dell'atrocità. Chi era, Gio? Voglio saperlo! Il ragazzo grasso si guardò intorno con aria guardinga e, compiuta l'ispezione, urlò nell'orecchio della signora. Miss Rachel! Come? Disse la vecchia signora con voce acuta. Parla più forte! Miss Rachel! Ruggì il ragazzo grasso. Mia figlia! I cenni di assenso che il ragazzo grasso fece in serie muovendo il capo comunicarono un tremolio gelatinoso alle sue guance grasse. E lei lo ha lasciato fare! Esclamò la vecchia signora. Un sogghigno aleggiò sul viso del ragazzo grasso mentre diceva: Ho visto che anche lei lo baciava! Se Mr. Jingle dal suo nascondiglio avesse potuto vedere l'espressione del viso della vecchia signora a questa notizia, un improvviso scoppio di risa avrebbe probabilmente tradito la sua presenza vicino al chiosco. Ascoltò attentamente. Giunsero al suo orecchio frammenti di frasi risentite come: Senza il mio permesso, alla sua età, una povera vecchia come me poteva aspettare almeno che morissi, e via dicendo. Poi sentì scricchiolare sulla ghiaia i tacchi degli stivali del ragazzo grasso che se ne andava e lasciava sola la signora. Sarà forse una strana coincidenza, ma è non di meno un fatto che Mr. Jingle, dopo 5 minuti dal suo arrivo a Manor Farm, la sera prima, aveva deciso fra sé di mettere l'assedio al cuore della zia Zitella, senza por tempo in mezzo. Aveva abbastanza spirito d'osservazione per accorgersi che i suoi modi disinvolti non dispiacevano affatto all'amabile oggetto del suo attacco, e aveva il sospetto, assai fondato, che ella possedesse il più desiderabile di tutti i requisiti: una piccola rendita. Subito gli fu chiara l'imperiosa necessità di sbarazzarsi del rivale con qualsiasi mezzo, e decise immediatamente di adottare senza un minuto di ritardo una linea d'azione diretta a questo scopo preciso. Fielding dice che l'uomo è fuoco, la donna stoppa e il principe delle tenebre la scintilla che le unisce. Mr. Jingle sapeva che per le zie Zitelle i giovanotti sono come il gas acceso sotto la polvere da sparo, e stabilì di provare l'effetto di un'esplosione senza perder tempo. Riflettendo intensamente su questa importante decisione, scivolò via dal suo nascondiglio e, protetto dalle siepi summenzionate, si avviò verso casa. La fortuna sembrava decisa a favorire il suo piano. Mr. Tupman e gli altri signori stavano uscendo dal giardino per il cancello laterale, tanto che fece appena in tempo a vederli, e sapeva già che le ragazze erano andate a spasso da sole subito dopo colazione. Il campo era libero. La porta della stanza di soggiorno era semiaperta. Spiò dalla fessura. La zia Zitella stava lavorando a maglia. Si raschiò la gola. Essa alzò gli occhi e sorrise. L'incertezza non faceva parte del carattere di Mr. Alfred Jingle. Portò un dito alle labbra misteriosamente, entrò e chiuse la porta. Signorina Wardle, disse Mr. Jingle con ostentata serietà, perdonate l'intrusione, la conoscenza è troppo recente, ma non c'è tempo per cerimonie. Hanno scoperto ogni cosa. Catalina, cosa col chi? Ma vi ho da valetti. Catalina, cosa col chi? Ma vi ho da valetti. Si teva chi metti ma, uga taga tarba ma. Si teva chi metti ma, uga taga tarba ma. Gio la vecchi gusti ma, io ru e me turchi ma. Gio la vecchi gusti ma, e me turchi ma. Mica me e minni alla, mica me e minni alla, mica me e minni alla, mica me e minni alla, mica me e minni alla, mica me e minni alla, mica me e minni alla, mica me e minni alla. Thank you. signore! Disse la zittella un po' stupita dell'inattesa apparizione e un po' dubbiosa sull'equilibrio mentale di Mr. Jingle. Shh! Disse Mr. Jingle con un sottovoce da palcoscenico. Grosso ragazzo, faccia di torto, occhi tonti, gaglioffo! E scosse espressivamente la testa mentre la zia zitella già tremava, agitatissima. Immagino che vogliate alludere a Joseph, disse poi facendo uno sforzo per sembrare calma. Sì, signora, maledetto Joe, cane traditore, quel Joe, ha parlato alla vecchia signora furibonda, inviperita, fuori di sé, chioschetto, Tupman, baciare, abbracciare, via discorrendo, capite, signora, capite? Oh, Mr. Jingle, disse la zia zitella, se voi venite qui per insultarmi... Niente affatto, no, nel modo più assoluto, rispose l'inalterabile Mr. Jingle. Udito il racconto per caso, venuto ad avvertirvi del pericolo, offrirvi i miei servigi, prevenire il putiferio, ma non importa. Voi pensate che è un insulto? Esco subito dalla stanza. E si voltò come per mettere in esecuzione la minaccia. Che devo fare? Disse la povera zitella scoppiando in lacrime. Mio fratello sarà furente. Senza dubbio, disse Mr. Jingle dopo un momento di silenzio. Inferocito! Oh, Mr. Jingle, che cosa gli posso dire? Esclamò la zia zitella in una nuova crisi di disperazione. Dite che se lo è sognato, rispose tranquillamente Mr. Jingle. Un raggio di speranza attraversò la mente della zia zitella nell'udire questo consiglio. Mr. Jingle se ne accorse e sfruttò la situazione. Beh, niente di più facile. Ragazzo malizioso, bella donna, ragazzo grasso offustato, voi creduta, la cosa finisce qui. Tutto va nel migliore dei modi. La possibilità di sfuggire alle conseguenze di quella sciagurata scoperta le diede forse un senso di sollievo, o forse fu il sentirsi descrivere come una bella donna a raddolcire la sua pena. Certo è che arrossì leggermente e allungò a Mr. Jingle uno sguardo di gratitudine. Quel subdolo individuo sospirò profondamente, tenne per due minuti gli occhi fissi sul viso della zia zitella, poi si riscosse con aria melodrammatica e li ritrasse di colpo. «Mi sembrate triste, Mr. Jingle», disse lei con voce querula. «Posso esprimervi la mia gratitudine per il vostro gentile intervento, chiedendovi perché, con la speranza che mi sia possibile fare qualcosa per sollevarvi». «Ah!» esclamò Mr. Jingle con un altro scossone. «Sollevarmi! Volete sollevarmi dalla mia tristezza, quando avete riposto il vostro amore in un uomo insensibile a tanta felicità? Un uomo che in questo momento sta accarezzando un progetto sentimentale sulla nipote di colei che... No, no, è un mio amico, non posso rivelare i suoi vizi. Signorina Wardle, addio!» Alla fine di questo discorso, il più filato che fosse mai uscito dalla sua bocca, Mr. Jingle si portò agli occhi i resti di un fazzoletto di cui già facemmo menzione e si voltò verso la porta. «Fermatevi, Mr. Jingle!» disse la zia zitella enfaticamente. «Avete fatto un'allusione a Mr. Tupman? Spiegatevi!» «Giammai!» esclamò Jingle con aria professionale, cioè teatrale. «Giammai!» E per mostrare che non desiderava ricevere altre domande, tirò una sedia vicino a quella della zia zitella e sedette. «Mr. Jingle», disse la zia, «vi prego, vi supplico, se a Mr. Tupman è connesso un qualche spiacevole segreto, ditelo». «Posso io», disse Mr. Jingle con lo sguardo fisso sul viso della zia, «posso io vedere, dolce creatura, sacrificata sull'altare di una spietata avarizia?» Sembrò lottare per qualche secondo con diverse emozioni contrastanti, poi disse con voce bassa e profonda: «Tupman vuole soltanto il vostro denaro». Thank you. possibile!» esclamò la zia Zitella con energica indignazione. I dubbi di Mr. Jingle erano dunque risolti. Ella aveva denaro. «Dirò di più», disse Jingle. «Ne ama un'altra!» «Un'altra!» esclamò la Zitella. «Chi?» «Ragazza piccoletta, occhi neri, nipote Emily.» Ci fu una pausa. Se c'era una persona al mondo verso cui la zia Zitella sentiva una gelosia mortale e insuperabile, quella era proprio la nipote. La faccia e il collo le si fecero di porpora e alzò la testa senza pronunciare verbo, con aria di ineffabile disprezzo. Alla fine, mordendosi le labbra e scuotendo la testa, disse: «Non può essere, non lo crederò.» «Sorvegliateli.» «Lo farò.» «Sorvegliate i suoi sguardi.» «Lo farò.» «I suoi bisbigli.» «Lo farò.» «Siederà accanto a lei a tavola.» «Faccia pure.» «Le farà dei complimenti.» «Faccia pure.» «Le userà ogni riguardo possibile.» «Faccia pure.» «E vi pianterà.» «Piantare me?» strillò la zia Zitella. «Lui piantare me? Questo vuol fare?» Tremava di rabbia e di umiliazione. «Volete convincervene?» disse Jingle. «Lo voglio.» «Saprete essere di spirito?» «Lo sarò.» «Non vorrete più saperne di lui dopo?» «Mai più.» «Accetterete qualcun altro?» «Sì.» «Fatelo.» Mr. Jingle cadde in ginocchio e così rimase nei 5 minuti che seguirono. E si rialzò come accettato amante della Zitella, a condizione che il tradimento di Mr. Tupman fosse reso chiaro e manifesto. L'onere della dimostrazione ricadeva su Mr. Alfred Jingle e questi produsse le sue prove quel giorno stesso a pranzo. La zia Zitella quasi non credeva ai suoi occhi. Mr. Tracy Tupman si era dislocato a fianco di Emily, gareggiando con Mr. Snodgrass in occhiatine e bisbigli, sorrisi. Non una parola, non uno sguardo, non un gesto egli dedicò a colei che la sera prima era stata la fiamma del suo cuore. «Maledetto ragazzo!» pensava il vecchio Mr. Wardle, che aveva saputo la storia da sua madre. «Maledetto ragazzo! Sarà stato addormentato, sono tutte storie.» «Traditore!» pensava la zia Zitella. «Il caro Mr. Jingle non mi ingannava. Come odio quel miserabile!» La seguente conversazione potrà chiarire al lettore questo cambiamento di condotta apparentemente ingiustificabile da parte di Mr. Tracy Tupman. L'ora è serale, la scena in giardino. Due figure camminano per un vialetto appartato. Una è piuttosto piccola e grassa, l'altra piuttosto alta e sottile. Sono Mr. Tupman e Mr. Jingle. Il dialogo parte dalla figura grassa. «Come mi sono comportato?» «Oh, splendido, straordinario. Io stesso non avrei recitato meglio. Dovete ripetere la stessa commedia domani, ogni sera, fino a nuovo ordine.» «Rachel lo desidera ancora?» «Certo, non è quello che vorrebbe, ma bisogna farlo. Distrarre i sospetti, teme suo fratello, dice che non si può fare altrimenti. Ancora pochi giorni soltanto. Quando i vecchi non sospetteranno più, vi renderà pienamente felice.» «Nessun messaggio?» «Vi ama, un tenero amore, i suoi più cari saluti, la sua inalterabile devozione.» «Devo dirle qualcosa da parte vostra?» «Carissimo», rispose Mr. Tupman senza alcun sospetto, stringendo calorosamente la mano del suo amico. «Portatele l'espressione del mio amore. Ditele come mi è duro dissimularlo e ditele qualcosa di gentile. Ma aggiungete che mi rendo conto della necessità di seguire il consiglio che per mezzo vostro mi diede questa mattina. Ditele che approvo la sua saggezza e ammiro la sua discrezione.» La scena del pranzo si ripeté a cena e così per i 3 giorni e le 3 sere che seguirono. Al quarto, il padrone di casa era di ottimo umore, perché era soddisfatto che l'accusa contro Mr. Tupman non avesse fondamento. Ed anche Mr. Tupman, perché Mr. Jingle gli aveva detto che la faccenda si avviava a un'imminente soluzione. Ed anche Mr. Pickwick, perché raramente non lo era. Mr. Snodgrass invece si sentiva di cattivo umore, perché era diventato geloso di Mr. Tupman. Ma di buon umore si sentiva la vecchia signora, perché aveva vinto al whist. E così pure Mr. Jingle e la signorina Wardle, per ragioni tanto importanti in questa storia, pur così piena di eventi, da richiedere che siano narrate in un altro capitolo. Dica che son nato un novizio grosso assai, che un naggio verso mai e va trovo lui perché mi è sempre piaciuto di stare in allegria, io la malingonia non saccio che robè, di tutto ride che in ce pozzo va, non me ne importa se sto a sbagliare. Io rido se uno chiagna, si stonga disperato, si non ha già magnato, rido senza pensare. Mi pare che redenna, ogni tormento passa, anche se recrea e spassa, con le cose posta, sarà di petto grosso di stucca. Mo venga un mo pozzo più leva. Mio diceva che a tutte li facenne faceva il seredenne e a questi voglio fa chi stio di petto mio cui mo già lo sapite insieme con me ridite che bene ve farà ridite e ammaia che bene ve farà. Piero Baldini ha letto Il Circolo Pickwick di Charles Dickens. Riduzione di Carlo Talini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.